Gianluca Nicoletti. Tommy, lo sai quanti chilometri abbiamo fatto finora per il film? Fica Tommy. Fa un numero, di un numero, quanti ne abbiamo fatti? 10. No, più. Quanti chilometri? 6 cose. No, più. Guarda dentro, riguarda la camera. Quanti chilometri abbiamo fatto finora per il film? Ah, posso? No, 5.000. Sicuro. Tommy finora ha fatto, in varie riprese, per girare il suo secondo film, Tommy e l'asta dei cervelli ribelli, già 5.000 chilometri. Dillo, ho fatto 5.000 chilometri. Ma non 5.000. 5.000 chilometri. 5.000 nonni. Tommy ha fatto 5.000 chilometri per fare il suo film. Questo è un momento un po' difficile per me, lo dico sinceramente, perché oggi è, come avete sentito, la giornata internazionale in cui sarebbe ricordare la consapevolezza per l'autismo. Abbiamo fatto un'infinità di iniziative legate appunto all'autismo. Non pensavamo di dover trascorrere questo 2 aprile in una condizione generale che assomiglia molto alla condizione autistica, di distanziamento sociale. Io stesso in questo momento sto qui con mio figlio Tommy, che stranamente non è mai successo in questi ultimi 15 giorni, un momento un po' difficile, quindi potrebbe anche interrompermi durante la diretta, ma questo in fondo serve anche a far capire qual è la situazione in questo momento. E devo dire che mi serve un attimo soltanto che qualcuno mandi una clip, perché devo un attimo stare con mio figlio, solo un secondo, perché è la regia di mandare una clip. Come è accaduto a te, anche a me è accaduto di avere un figlio autistico e si entra necessariamente e inevitabilmente si va ad analizzare il funzionamento del cervello dell'essere umano e lì scopri un casino di cose interessanti. Diciamo che le nostre guide sono i nostri figli, Balzani, se no non staremo nemmeno qui. Vai. Ma lo sai l'inno? Fratelli d'Italia, fratelli d'Italia. Tu vedi che gigante che è? Ecco, sono tornato, chiedo scusa, ma capita quando c'è un autistico in casa, che è un momento difficile, soprattutto occuparmi di mio figlio, aveva un momento di quelli che si chiamano momenti oppositivi, adesso è tranquillizzato e posso continuare la mia trasmissione, poi se chi ci segue il video lo potrà vedere accanto a me e magari capirà che il momento è passato. Niente di trascendentale, niente di particolarmente difficile, questi sono momenti che capitano. Qualcuno penserà che è stato fatto con una volontà coreografica. No, non è così, purtroppo non avrei voluto far così. Soltanto così, in qualche maniera, ho l'occasione per farvi capire cosa può accadere oggi in tante case dove ci sono persone che hanno in gestione una persona autistica, un ragazzo con alcuni problemi che lo costringono doppiamente a una situazione di disagio rispetto alle altre persone che comunque hanno una situazione di indubbio malessere. Si è molto parlato in questi giorni del problema che hanno le famiglie con persone neurodiverse a gestire quelle che sono le routine che tranquillizzano queste persone. Un modello di vita che tranquillizza una persona a basso livello d'ansia deve essere nuovamente ridiscusso e magari lo stare in casa con i genitori, con i fratelli, con gli altri familiari non è proprio la cosa più divertente. Già sono poche le occasioni di inserimento sociale, di inclusione sociale per questi ragazzi. Oggi devo dire sono molto grato al Sole 24 Ore perché sta facendo un'operazione secondo me di grande utilità sociale. Dal sito del Sole 24 Ore potrete vedere in streaming fino alle 20 di questa sera il film Tommy e gli altri. È il primo film che abbiamo fatto io con mio figlio, è un quadro impietoso, molto crudo di quella che è la realtà di persone neurodiverse nel nostro paese. Noi poi abbiamo, lo sapete, ci avete seguito con Radio 24, seguito con un backstage fatto attraverso dei podcast in viaggio con Tommy, quella è stata la produzione e la realizzazione del secondo film di cui tanto vi ho parlato, a cui tanto voi avete partecipato. Tommy e l'asta dei cervelli ribelli, che sarà trasmesso questa sera su Sky Arte alle 21:15, e aspetto il vostro giudizio. Voi mi direte che ne è dell'asta a cui abbiamo anche noi partecipato. Tutti i progetti che in questo momento abbiamo messo in cantiere per riuscire a creare un modello di spazio di inclusione per questi ragazzi, naturalmente sono compromessi. L'asta che doveva essere annunciata oggi fisicamente sarà fatta il 16 aprile. Il 16 aprile vi daremo modo di partecipare all'asta online, in cui ci saranno anche molti degli oggetti che hanno prodotto gli ascoltatori di Radio 24. Quindi oggi chi volesse seguire il backstage di questo film può andare a cercarsi sul sito di Radio 24 i podcast In viaggio con Tommy. Chi volesse oggi ascoltare noi, cercheremo in diretta per quanto possibile fare un punto su le persone sono sottoposte a un particolare rigore dal distanziamento sociale, che sono le persone con una neurodiversità nello specifico, visto che oggi è la loro giornata, ma le persone più a vasto spettro che hanno comunque dei problemi, non sono totalmente in linea per le loro potenzialità fisiche e psiche con quello che è il modello standard dell'essere umano, standard come tutti siamo abituati a vederlo nella maggior parte delle sue manifestazioni. Quindi pregherei gli ascoltatori 800240024 di darci i loro contributi. E state gestendo in questo momento una situazione particolarmente problematica? Avete una persona in casa per cui avete una maggiore apprensione? Pensate che possono esserci degli strumenti istituzionali che vadano incontro a chi è doppiamente sottoposto a un sistema di distanziamento sociale, come le famiglie che hanno in casa un soggetto neurodiverso? Ecco, il numero è 800240024. Intanto presento il mio primo ospite, Roberto Speziale. Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. Roberto Speziale, presidente nazionale dell'ANFAS, che è l'Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale. Oggi, diciamo, a tutti i tuoi associati hai un messaggio particolare da dare. In questi giorni se ne è parlato molto di persone con disabilità, intanto parliamo di disabilità psichica, che hanno un doppio problema rispetto agli altri. C'è stato qualcosa che è cambiato rispetto all'ultima volta che siamo sentiti una settimana fa? Sì, la situazione chiaramente è costantemente in evoluzione. Un provvedimento che posso dire assolutamente positivo, per esempio, è quello di ieri del Ministro della Salute Speranza, che ha sostituito le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità proprio per garantire una modalità alle persone con disturbi dello spettro autistico di poter uscire dalla propria abitazione senza essere intercettato da una pattuglia e magari buttati o avere, come dire, delle difficoltà. Chiarisce, come dire, questi aspetti. Il ministro Lamorgese darà un'indicazione a tutte le forze dell'ordine, questo darà sicuramente più serenità alle famiglie che con tutti i, come dire, requisiti di sicurezza, solo se è necessario e indispensabile, che bisogna stare a casa, ma se necessita, come dire, per evitare che ci siano comportamenti auto-aggressivi da parte. Ti sentiamo molto male, Roberto. Magari se gentilmente alla regia possono richiamare Speziale, perché è veramente difficoltoso il collegamento. Invece è importante quello che sta dicendo Speziale. Speziale stava dicendo che, anche per sicuramente l'intervento delle associazioni, il ministro Speranza ha decretato quello che già molte regioni avevano espresso come possibilità, che le famiglie con una persona autistica, previa alla certificazione sempre con sé, che attesti che quella persona è, diciamo, un articolo 3,3 della legge 104, quindi una persona con una disabilità molto grave, con un certificato di uno psichiatra o neuropsichiatra che ne attesti il concreto bisogno di fare questa passeggiata, con un genitore e come accompagnatore che abbia anche lui la sua certificazione che attesti il percorso che fa, la necessità per cui fa questo percorso, possono fare la famosa passeggiatina. Anch'io lo dico, teniamo sempre conto E su questo si è aperta una grande polemica se gli autistici che escono ai genitori debbano mettersi una fascia azzurra per essere riconosciuti, perché il controllo sociale c'è in questo momento, ha portato in alcune situazioni dei problemi, dicendo: tu perché vai in giro con quel ragazzone? Chi ti autorizza a farlo? Dice: ma è autistico, allora bisogna spiegare. Allora ad alcune latitudini hanno pensato che una fascia blu si poteva risolvere il problema, altri hanno detto è una sorta di quasi marchio, perché dobbiamo marchiarci, la gente deve capire e farsi carico di questo. È un po' difficile. Vorrei sentire Vincenzo Falabella. Vincenzo Falabella, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ricordo che Vincenzo Falabella è presidente della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Ecco, cosa ne dici te di questa vicenda, che un po' se ne è parlato, che le persone che hanno un diritto ulteriore di poter usufruire di un po' di spazio all'esterno della loro casa per motivi improrogabili e inderogabili dati al loro stato, poi debbano anche mettersi un segnale distintivo addosso se la loro disabilità non è così evidente? Ma innanzitutto sono fortemente contrario. I nostri ragazzi, le nostre ragazze con autismo non devono portare nessuna lettera scarlatta, perché poi fondamentalmente il semplice segno di riconoscimento significa ghettizzare ancora di più già le angherie che vivono i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Quindi no, occorre sensibilizzare l'opinione pubblica, occorre sensibilizzare la comunità di appartenenza, far capire che cos'è l'autismo. Non bisogna avere paura dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, anzi bisogna saper affrontare le giuste modalità di approccio, e quindi credo che sicuramente va bandita l'idea della fascia azzurra. Ecco, io l'ho detto in apertura, l'ho detto a Semina Speziale, volevo ragionare anche con te. Come si può in questo momento, è molto delicato quello che ti sto per dire, è anche rischioso da parte mia, riuscire a mantenere la necessaria discrezione per non invadere troppo gli spazi già problematici del resto del mondo rispetto a noi, che ci portiamo un problema in più, ma allo stesso tempo non arretrare, proprio come hai detto adesso, rispetto al nostro diritto di conquistare spazi di inclusione comunque per tutti, anche per quelli che comunque hanno qualche problema ulteriore. Non so se mi sono spiegato, è un'equazione un po' difficile. Io mi faccio molte volte mille scrupoli, dice: ma io porto anche il mio problema quando già tutti hanno dei problemi. Allo stesso tempo mi dico: ma perché non devo stare zitto, devo continuare a fare quello che ho sempre fatto? Allora, iniziamo col dire che il problema, mi permetterai di fare questa similitudine, di chiamare in causa Tommy. Il problema di Tommy non è un problema solo di Tommy, il problema è dell'intera collettività, della comunità, di questo paese. Non lo vedrei come problema, lo vedrei invece come una risorsa, perché io che ho avuto modo di rapportarmi con tanti ragazzi che vivono il cosiddetto mondo dell'autismo, ho ricevuto da loro tantissimo. Quindi ritorniamo anche sulla capacità e sulla facilità di mantenere vivi i rapporti personali. Forse questo lo abbiamo perso, visto anche l'enorme utilizzo della tecnologia, abbiamo perso i rapporti umani, dovremmo recuperare i rapporti umani, dovremmo saperci confrontare con tutti e soprattutto capire che quando si parla di disabilità, la disabilità, o meglio ancora, parliamo di vite delle persone, no? Non parliamo dell'autismo, parliamo di Tommy. Mi piacerebbe parlare di Tommy piuttosto che dell'autismo, poi viene anche l'autismo, però la vita di Tommy e quindi la vita delle persone con disabilità non può valere meno rispetto alle altre vite, e quindi bisogna avere il giusto approccio, dal giusto approccio poi trovare le soluzioni. La nostra convenzione, la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, parla di accomodamenti ragionevoli. Ecco, se noi riuscissimo nella pratica ad adottare accomodamenti ragionevoli, credo che supereremmo quelle barriere, quegli stigma, quei pregiudizi che ancora oggi sono forti nella nostra comunità. Sentiamo Giovanni da Roma, primo ascoltatore, oggi è aperto il telefono 800 24 00 24. Trovo sia una grande occasione per riflettere serenamente, nello specifico con persone informate della vastità e della complessità di questo problema e della disabilità in generale, in un momento in cui tutte le persone comunque sono sottoposte a quello che è uno stato di non totale possibilità di espandersi sensorialmente, relazionalmente, emotivamente. Giovanni. Buongiorno Gianluca, senti, io ho seguito poco fa che eri in diretta da Eleonora Daniele, sì. Lei uno, soprattutto con Tommy, vi mando un saluto. Sì, infatti si è stressato, e lo scappo è stato che nel momento della radio sarà stressato, vabbè succede, fa parte del gioco, ci giocherei volentieri, ecco. Sì. Perché adesso, come hai detto tu, ecco, in questa enfasi che siamo tutti rinchiusi dentro casa, non abbiamo più la nostra libertà, però tu hai fatto grandi battaglie da 7-8 anni dicendo che la disabilità è un po' quello che poi include quando qualcuno ti chiude dentro una stanza, no? E questo non deve essere, perché noi abbiamo visto anche le ultime forme di governo, anzi, soprattutto io ripropongo i grandi studi della legge Basaglia su tutto il grande territorio nazionale, la politica è stata sempre assente, anzi oggi ha cancellato, pure se a forza ha ripristinato grandi fondi e ha dato grandi plessi oppure posti dove queste persone. Sì, però Giovanni, perfetto, non voglio tarparti, in questo momento però mi sembra che il nucleo della discussione non è fare le analisi, quello che ha fatto la politica in passato, sì è stata molto assente, qualcuno invece a differenza di altri si è dato più da fare, i risultati sono stati visti, rispetto a 10 anni fa sono stati fatti passi avanti enormi. Spero che non sia questa l'occasione per perdere tutto quello che si era guadagnato. Raffaella da Roma, buongiorno. Raffaella. Gianluca, sì. Eccoci. Sì, io volevo un attimo fare la riflessione sul fatto, già l'avete accennato, il fatto che questi ragazzi comunque che hanno la disabilità psichica, fisicamente sono, diciamo, perfetti, quindi non si riconosce la loro disabilità, per cui io ho provato a uscire di casa, ovviamente sono stata insultata dai balconi perché ti vedono a spasso con un ragazzo, no? E questo non va bene. Poi vuoi andare, non so, te lo devi portare al supermercato perché non sa chi lasciarlo, c'è una catena comunque di grandi, insomma un supermercato che ti dice no, comunque l'adulto non può entrare con un ragazzino, giustamente in questo momento va bene. Però io non dico, prima che mi dicevate la maglietta blu, cioè il problema nostro è sempre questo, che il disabile psichico, cioè anche a Roma ti dicono che ci avrebbe sto ragazzino. Cioè la solita battaglia per cui non riusciamo a farlo stare seduto sull'autobus. Adesso io non so, ecco, però uno alla fine si frustra anche di questo, no? Perché non lo so, siamo sempre quei disabili borderline, non siamo riconosciuti, sembra sempre che vogliamo fregare il prossimo, per cui devi sempre pregare, come è successo prima a te, che tuo figlio non abbia un comportamento problema, perché quando vai da qualche parte, perché tanto la gente si è consapevolezza, ma questa giornata c'è dal 2007, ma qui in Italia ancora non, di consapevolezza ce n'è poca. Quindi solo questo, voglio dire, la stessa. Diciamo fatto che è un motivo di possibilità di far comprendere consapevolmente qual è lo stato di, lo ripeto, obbligatorio distanziamento sociale come condanna a vita di alcune persone, è proprio questo. Non voglio che nessuno in questo momento si senta sovrapporre quelli che sono i suoi problemi individuali da problemi di altri, dicendo vedetevela voi. La discrezione e il pudore in questo momento sono i sentimenti che non mi appartengono assolutamente geneticamente, che cerco di fare miei il più possibile per parlare di autismo. Ci fermiamo un istante, abbiamo recuperato Speziale, fra un istante ci sentiamo e continuiamo. Voglio che lui stia a contatto con persone che siano strane legate al mondo dell'arte. Qui è musica, ricercatezza, oggetti, design. Finché sta in questo ambito, lui può permettersi di essere col cervello diverso. Certo. Se lo sonetti in mezzo alla gente normale, è un matto fuori, deve essere chiuso. No. Quindi Tommy, come noi. Io sto facendo il giro dei miei amici, che ma, so un po' strani, con cose strane, ma voglio fargliele vedere. Non solo, ma io li ho sempre adorati quelli, io vivo da provincia, quindi figurati, i matti o quelli un po' strani della mia città, erano i miei preferiti, io mi sono ispirato a loro, quelli Beh. Inventori di cose curiose, i collezionisti, di cose, quelli che dicevano delle cose fuori ordinanza, dico io. Allora abbiamo pensato di fare questa cosa strana. Stiamo girando questo film, girando tutta Italia, cercando persone che collezionano cose fuori dall'ordinario. Sì. Come sì. la trovi come idea? Sì, io è ottima come idea. Da quando sono nato, vabbè, ho avuto un'infanzia, come al solito c'era la guerra, quindi infanzia non potevo permettermi cose che mi divertissero, però facevo delle cose fuori dall'ordinario. Poi tutta la mia vita è stata la ricerca di fare cose un po' fuori dall'ordinario. 800240024, questo era il riconosciuto Renzo Arbore, che assieme a Elio e a tanti altri artisti ci hanno sostenuto in questa avventura di Tom e l'asta dei cervelli ribelli. Questa sera li vedrete tutti su Sky Arte, ma li potete ascoltare anche nel podcast In Viaggio con Tommy, che è sul sito di Radio 24. Ricordo che l'asta, su cui anche voi vi siete molto impegnati, ci sarà comunque, sarà il 16 aprile. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.cervelliribelli.it, dove andate a vedere. Ci sarà a breve, penso proprio questione di poche ore, anche il catalogo dell'asta. Vedrete quali sono gli strani oggetti che noi abbiamo collezionato. Ricordo che oltre a Radio 24, a Sky, a Culta, che ha prodotto il film, che ci ha aiutato anche per la parte, diciamo, organizzativa, sono stati tanti quelli che con entusiasmo hanno pensato di sostenere l'idea che per le persone autistiche, oltre al diritto di una vita inclusiva, c'è anche il diritto di poter usufruire delle forme più sottili e più eterodosse anche dell'espressione artistica. Non pensiate che la persona autistica, che sembra apparentemente dotato soltanto degli strumenti elementari cognitivi, non abbia una sensibilità per il bello, per il raffinato, non gli piaccia e non vede la differenza fra una cosa triste e squallida e una cosa invece esteticamente confortante. Questo lo dico perché non si pensi che la loro destinazione debba essere sempre quella di andare in posti tristi. Loro amano, come tutti gli esseri umani, le cose belle, confortevoli, piacevoli, rasserenanti. 800240024, oggi parliamo in maniera precipua di autismo, visto che è la giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Abbiamo ospiti di grande rilievo, quindi parliamo in generale della condizione della disabilità in un momento in cui tutta l'umanità è sottoposta a un regime forzato di isolamento e si sente un po' fuori dalla società. Francesco, provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno. Allora, io mi occupo, sono un medico e mi occupo d'autismo per casi che vanno dall'età dei 2-3 anni, cioè dalla diagnosi, fino all'età adulta, perché lavoro in un centro di riabilitazione, la comunità di Capodarco. Volevo dire due o tre cose rapidissime. La prima, che bisogna sempre usare il termine plurale, gli autismi, perché i ragazzi fra loro sono tutti diversi e purtroppo ci sono le condizioni con elevato funzionamento cognitivo. Sì, ma adesso fa la lezione sull'autismo o c'ha qualcosa di testimonianza? No, assolutamente. Solo per capire, perché dice una banalità, lo dice a me, lo dice, prego. Perfetto, allora la testimonianza è tutta qui. Adesso il Sistema Sanitario Nazionale si è accorto che esistono gli autistici adulti. Sono arrivate norme, sono arrivati i centri regionali, almeno nella mia regione sono arrivati. Però non esiste una cultura diffusa nella classe medica per questo tipo di... La sua regione cos'è? Lazio? No, le Marche. Ah, le Marche. Quindi questi pazienti, in via del tutto teorica, sono affidati alle cure degli psichiatri. In realtà gli psichiatri non ne vogliono sapere, perché hanno sempre lavorato con altri tipi di quadri clinici. E non esiste una cultura medica della cura del paziente autistico adulto. È come se si dicesse... Io trovo abbastanza... Sì, dottore, mi dispiace, mi consenta, visto che lei... Parlare ancora di una persona neurodiversa come un paziente che vada curato, lo trovo leggermente fuori quella che è la visione più coerente e più attuale della condizione autistica, però ognuno è libero di esprimersi come vuole. Roberto Speziale, ricordo, presidente nazionale ANFAS, Associazione Nazionale Famiglie Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale. Il dottore ha accennato a una situazione che almeno in qualche regione sta cambiando per la tutela della vita inclusiva anche dell'autistico adulto, che sembra un controsenso. Per molti l'autismo è soltanto una condizione infantile, ma in realtà è una condizione che dura per tutta la vita. Sì, non c'è dubbio che passi in avanti in questi anni se ne sono fatti e che la consapevolezza e la condizione complessivamente, come dire, molto più conosciuta anche al lavoro che fai tu, il mondo dell'informazione, il nostro mondo associativo, ma non possiamo ancora affermare assolutamente che abbiamo raggiunto anche il risultato minimo sostenibile, e in questa occasione, in questa emergenza, tutti i nodi stanno venendo al pettine. È come se noi fossimo invisibili, i nostri figli continuano ad essere invisibili al sistema soprattutto che li consideri persone, non malati, persone con diritti, con dignità, con esigenze. Sai Roberto, io posso sembrare molte volte molto spiacevole, perché la mia ruvidezza è qualcosa di cui non riesco a liberarmi, però che un medico ancora parli di pazienti da curare, parlando di autistici adulti, già li costringe a una condizione medicalizzata per tutta la vita. Il malato da curare deve essere ricoverato, invece no, l'autistico adulto dovrebbe fare una vita il più possibile come quella degli altri. Ed esattamente quello che ancora c'è da superare, il modello medico, e quindi il modello per cui una persona è un malato da curare, invece di considerare che ogni cittadino è portatore di diritti, e come diceva prima Vincenzo Falabella, non deve essere visto come un problema, come una questione individuale, ma come una questione sociale, quindi ricevere tutti i sostegni necessari, perché noi familiari, noi genitori, guarda che non dobbiamo avere nessuna remora a dirlo, noi da soli non ce la possiamo fare. Cioè, la complessità delle nostre disabilità, dei disturbi allo spettro autistico, delle disabilità del neurosviluppo, disabilità complesse, non consentono a un genitore e una famiglia di poterla gestire in solitudine, e in una situazione di emergenza questo sta avvenendo ancora più in evidenza. Noi abbiamo bisogno di sostegni, ma di sostegni sociali, di una infrastrutturazione sociale, non abbiamo bisogno soltanto di medici e di sanità, anche la condizione di salute è una condizione importante, ma non è l'unica condizione. E in questo momento abbiamo noi centinaia di migliaia di famiglie, tieni conto, Gianluca, che in Italia vivono oggi 300.000 persone con disturbi dello spettro autistico nelle varie modalità, nelle varie forme, ma alcune di queste hanno delle complessità particolari, e queste famiglie in questo momento, molte di queste, sono lasciate a se stesse e stanno vivendo in queste ore delle situazioni spesso molto drammatiche. Ma questo viene da ciò che mancava prima, cioè non è l'emergenza che sta determinando queste condizioni, erano le carenze precedenti che stanno mettendo in ulteriore evidenza delle criticità che stanno diventando per molte delle nostre famiglie esplosive. Ora, in questo momento noi dobbiamo avere un atteggiamento positivo e propositivo e non polemico, però oggi è la giornata della consapevolezza, una riflessione su questa va fatta, perché non vorrei che tra qualche settimana noi ci dimentichiamo che queste questioni non possono più essere la cenerentola delle nostre priorità. Prendere in carico persone che hanno maggiore intensità di sostegni è un dovere, non è un'opzione. Tu avevi parlato qualche tempo fa, mi ricordo, ne parlammo sembra un anno fa, due anni fa, di desaparecidos. In generale, parlando della disabilità di tipo psicorelazionale, dice, non ti rendi conto quanta gente scompare e nessuno ne sa nulla. Al di fuori delle strutture conosciute, le strutture ufficiali, c'è una sorta di dispersione umana di persone in cui a un certo punto si perde la traccia. Mi spieghi meglio questo concetto, proprio alla luce oggi di quelle situazioni terribili che vediamo ogni tanto, dei centri dove stanno degli anziani che nessuno nemmeno sapeva che stessero lì e che si ammalano tutti. Ecco, cosa intendevi quando parlavi di desaparecidos? Ma guarda Gianluca, circa 400.000 persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, all'interno delle quali rientrano i disturbi dello spettro autistico, vivono in strutture residenziali spesso di grandissime dimensioni. Alcune di queste sono quelli che erano i vecchi residui manicomiali, ok, che Basaglia ha fatto chiudere, ma poi sappiamo essersi sparsi sul territorio in piccoli manicomi. Quindi hanno cambiato il nome, hanno cambiato un po' la struttura, ma il concetto rimane lo stesso. Molti delle nostre persone, quelle specialmente più anziane, più avanti nell'età o con disabilità più complesse, stanno, come dire, relegate, collegate in questa tipologia di strutture che chiaramente nascono per patologie psichiatriche di altra natura e di altra tipologia, e per decine e decine di anni della loro vita stanno, come dire, segregati in questa tipologia di struttura senza che nessuno ne abbia più memoria. Per questo parlo di desaparecidos, perché nessuno più, come dire, ha memoria che esiste questa grande popolazione che in quelle strutture non ci dovrebbe proprio stare, dovrebbe avere tutt'altra tipologia di servizi, perché noi continuiamo ad adattare le persone ai servizi che ci sono e non usare e creare strumentazione per garantire ad ognuno quello che gli serve. Questo è quello che non sta funzionando nel nostro sistema, spesso anche con qualcuno che ci specula sulle nostre vite, sulle vite dei nostri figli. Con Roberto Speziale spesso diciamo una formula che se l'ha inventata lui, ma io l'ho fatta mia, la dico continuamente: non vogliamo che nostro figlio diventi una retta. Quando la vera appetibilità sociale di un essere umano è quello che prima o poi la famiglia lo abbandoni perché per necessità, per anzianità, per decesso, e diventi una succosa retta che lo Stato paga, chi lo prende in carico, ecco, un momento molto delicato. Non vorrò mai che mio figlio Tommy diventi una retta per qualcuno che poi lo tenga in quei posti che appena ha descritto in maniera, devo dire, molto blanda, potremmo dire cose molto peggiori, Roberto Speziale. Ci fermiamo un istante. Melog 800024, oggi parliamo di autismo. Ricordo ancora che sul sito del Sole 24 Ore sta andando in onda streaming, chiunque può vederlo, il film Tommy e gli altri. Questa sera, grazie a Sky Arte, vedremo il secondo film sull'autismo con Tommy e l'asta dei cervelli ribelli. Nel sito di Radio 24 ci sono tutti i podcast parlano del backstage di questo film. Nel sito Cervelli Ribelli potrete trovare tutte le informazioni su quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di fare per questa giornata e in generale per le persone neurodiverse. Signore, io faccio il giornalista, scrivo, immagino, metto a disposizione quello che è il mio mestiere alla causa. Se facessi l'ingegnere progetterei dei centri belli, spaziosi, aperti, in cui si fanno cose divertenti. Se facessi l'avvocato farei quello che fa spesso l'ANFAS, andrei a difendere i diritti delle persone. Se facessi il medico eviterei di dire castronerie e cercherei il più possibile di dare strumenti di gestione della vita sociale per queste persone. Susanna da Siracusa, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Dunque, io volevo parlare di una mia, ecco, familiare, una mia parente, che è stata sempre presa in giro, adesso ha una certa età, 75 anni, però non voglio farne il nome, ma io sono per metà italiana e per metà di un'altra nazione europea piccola, dove questa ragazza, sempre mal considerata, ha invece ha avuto la possibilità di sviluppare il suo talento musicale, è diventata la pianista più famosa di tutta la nazione. Potrebbe anche dire il nome, perché mica diciamo ma sì, lo posso dire, solo che non vorrei che lo sentisse lei, perché non si nominano mai queste malattie. Lei si chiama Elisabeth Westenholz, dalla Danimarca. Non credo che in questo momento la pianista danese neurodiversa stia a ascoltare noi, magari mi lusingherebbe, ma mi creda, chi si trova dentro questo spettro non ha nessuno scrupolo, anzi ne è orgoglioso. Io mi sono fatto diagnosticare il mio autismo 2 o 3 anni fa e fa parte del mio nome e cognome, non lo considero un aspetto disdicevole, anzi sono contento, almeno ha un nome il mio provare disagio molte volte nei rapporti, nelle relazioni, nel contatto con gli altri, il non sentirmi mai capito fino in fondo, non riuscire mai a spiegarmi fino in fondo, ha un nome e questo nome è come una parte del mio DNA, è come il mio gruppo sanguigno, è come il mio codice fiscale, è come il mio IBAN e via dicendo. Allora riprendo con Vincenzo Falabella. Vincenzo, vediamo di allargare un po' il problema generale. Non voglio che questa giornata sia solo monopolizzata dalle persone che hanno disabilità tipo psichico, anche se è la loro giornata. Hai notato, hai punti di riferimento, hai avuto informazioni di situazioni di particolare disagio simili a quelle che ha accennato Roberto Speziale, che in questo momento sono più acute, e quale sarà il passo successivo? Quando poi finirà questa storia, perché prima o poi finirà, e ci riaffacceremo a un mondo che tutti dicono sarà diverso, quale sarà la diversità che ci auspichiamo che prenda? Ma guarda, io parto dal momento che stiamo vivendo, nel senso che il dilagare del virus nel nostro paese e a livello mondiale ha messo a dura prova tutto il sistema Italia, in particolare il nostro sistema sanitario nazionale ed anche il nostro sistema di protezione sociale, un po' quello che diceva anche Roberto poco fa. Quindi ha fatto precipitare moltissime persone, soprattutto le persone con disabilità, nella loro complessità, in un forte stato di preoccupazione, che è stato reso ancora più grave dall'incertezza del prossimo futuro, di quelli che saranno sia i tempi necessari al superamento della crisi, perché questo bisogna dirlo, sia le conseguenze che questa crisi avrà sulle nostre vite e sulle nostre relazioni sociali. Ora io credo che la fase dell'emergenza noi l'abbiamo vissuta tutti noi, l'abbiamo vissuta a maggior ragione le famiglie che vivono con all'interno un figlio, una sorella, comunque un parente con disabilità intellettiva e relazionale o del neurosviluppo, l'abbiamo vissuto un po' con tre fasi. Quella dell'incoscienza, non sapevamo cosa stesse accadendo, no? Nel senso che quando ci fu la prima disposizione che chiudevano le scuole o che sospendevano, meglio ancora, l'attività didattica curriculare, io ho notato che molte famiglie, vivendo a Roma, molte famiglie romane avevano colto l'occasione per andare a fare delle città fuori porta, no? Quindi c'era la fase dell'incoscienza in quella primissima fase. Poi c'è stata la fase della consapevolezza che ci stava succedendo qualcosa, quindi dovevamo avere la consapevolezza di affrontare un qualcosa di molto più grande rispetto a quello che potevamo aspettarci. Ora c'è la terza fase, che è quella più importante, no? Ossia quella di capire quale sarà il nostro prossimo futuro. E quindi le nostre famiglie, le persone con disabilità devono capire, e per dare anche una risposta alle telefonate che si sono susseguite, noi dobbiamo avere la forte capacità. Io vivo con una disabilità motoria, quindi forse una disabilità che si vede rispetto alle disabilità che non sono percepibili dall'occhio umano, o meglio ancora da quel poco senso di civiltà che ormai permane nella nostra comunità. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza e la forte capacità di contaminazione nelle comunità di appartenenza, far capire che le persone con disabilità non sono diverse, non sono malate, perché questo è un dato fondamentale. Io, persona con disabilità, non mi sento malato, mi sento cittadino di una comunità di appartenenza, e in quanto tale cerco, attraverso la mia testimonianza, di far capire a chi non vive la disabilità, a chi non conosce il mondo della disabilità, che possiamo vivere insieme, possiamo convivere insieme nel rispetto reciproco del riconoscimento dei diritti che ognuno di noi ha, perché prima ancora di essere persona con disabilità io sono un cittadino con pieni diritti. E quando parliamo di disabilità intellettive e relazionali, quando parliamo di autismo, i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono cittadini prima ancora di essere considerati cittadini, persone con autismo. Ecco, questo è un messaggio forte che deve partire da noi, nella consapevolezza che non possiamo essere lasciati soli, perché affrontare le tematiche e vivere la quotidianità con la disabilità necessita sicuramente di sostegni efficaci e imponenti da parte di un paese civile come quello che è. Questo è proprio il punto che secondo me vogliono toccare molti ascoltatori. Adesso farò parlare Mauro da Udine. È il problema dell'approccio con la macchina burocratica, difficilissimo, complicato, sfuggente, scivoloso. Ma in questo momento, quando tutto è fermo e tutto è difficile da raggiungere, il vero problema sarà per il dopo, per molti, rintracciare quei fili già abbastanza esili e sottili attraverso cui ci arrivava un sostegno a casa, un sussidio, la possibilità di far fare al figlio una vacanza o un momento di soggiorno in un posto dove potesse avere almeno un periodo di possibilità di inclusione. Mauro da Udine. Sì, buongiorno. Io parlo da padre separato che si trova... Pronto? Sì, l'ascolto. Sì, ecco. Sì, che si trova nelle condizioni. Sì, mi scusi. Che si trova nelle condizioni di affrontare, di aver dovuto affrontare, di affrontare una situazione di iperattività per disturbo di attenzione da parte della mia figlia. Peraltro io mi rendo conto che la disabilità fisica rispetto a quella psichica è una quota diversa, sia per territorio, sia anche e soprattutto per quello che riguarda come affrontano le varie ASL questa vicenda. Perché se una persona è iperattiva o una persona ha un'altra sindrome di questo tipo e nasce a Enna, differentemente da Bolzano, le condizioni sono questo diverse. Questo è un fenomeno diffuso per ogni disagio. La territorialità nel nostro paese è a macchia di leopardo. Qualunque sia, a me non mi piace fare le classifiche, le gerarchie più grave, più difficile, più assistente. Però in generale, chiunque abbia un disagio, chi appartenga a una popolazione con maggiore fragilità, è logico, è molto condizionato dal luogo in cui nasce. Una cosa è nascere in una città piuttosto che un'altra, ma addirittura nella stessa città, dico una città come Roma, in alcuni municipi è permesso alle famiglie con un figlio autistico avere l'assistenza domiciliare indiretta, cioè tu ti scegli la persona che segue tuo figlio, come è giusto che sia, e il comune ti paga la persona. In altri municipi, io parlo del primo dove sono io, invece no, devi beccarti la cooperativa che ti assegna il comune, e che il servizio naturalmente non sempre all'altezza, ma soprattutto è frammentario. Io ripeto, lo dico da anni, con lo stesso budget con cui il comune di Roma pagava una persona che veniva a casa mia un paio di volte a settimana per fare una passeggiatina di un'oretta intorno con mio figlio, con operatori che mai avevano visto un autistico in vita loro, ottenendo l'assistenza indiretta per tante persone, oggi ne posso soffrire, abbiamo trovato una persona formata ed adeguata che tutti i giorni in un orario di pieno pomeriggio può seguire il figlio con lo stesso budget. E questo cosa fa pensare? Lo dico a Roberto Speziale, che molte volte anche le risorse vengono impiegate male. Roberto. Sì, ma guarda, su questo tema sfondiamo, come dire, una porta aperta. Non c'è dubbio che fare delle cose approssimative in presenza di disabilità così complesse non solo spreca i denari, ma fa danno. Cioè fare delle cose fatte bene per le persone con disturbi dello spettro autistico, con operatori competenti, preparati, capaci, e farle con altri che invece lo fanno così, non è che è indifferente, rovina la vita dei nostri figli. Io ti faccio un esempio, Gianluca. Nel mondo della scuola, noi per dare inclusività a circa 240.000 alunni e studenti con disabilità spendiamo circa 6 miliardi e 400. Ma siamo sicuri che veramente nella scuola italiana c'è inclusività e che tutto si faccia con competenza e si faccia bene per l'interesse degli alunni e studenti? Devo dire, io nella mia esperienza, anche qua ci muoviamo a macchia di leopardo, in alcune scuole ci sono persone di ottima volontà, in altre solamente non c'è nulla. Grazie Roberto Speziale, grazie Vincenzo Falabella, l'appuntamento è sul sito del Sole 24 Ore e di Radio 24. Alla prossima.